questo microfono, non sa ne cosa va. Adesso anche tu ce l'hai, diciamo, adesso, anche le altre non è solo importante, comunque la passate tranquillamente, là, non c'è problema. Andare, Antonio, non ti preoccupare, l'importante è già la superare anche tu, non è un problema. se per caso dovesse ricominciare a fare l'imbecillo. Cappagatta, lì alle 15 già tutto, ma sicuramente questo vorrà andare male. Senza che mi sono venuti dei tutti, ma lasciamo perdere, dai. Guarda, se è la presenza da Gianni è sicuramente lì, nella zona della Tenoci, perciò avevo un tutto più alto. No, no, non è qua perché mi arriva un po' più basso del solito, ma comunque sicuramente qualcuno tira le macchine, perché un po' era una maniera, un po' era un'altra, colui stava girando in macchina sicuramente. No, tu hai sbagliato, colui stava girando in testa, non in macchina. La macchina l'ha fatto male, l'ha fatto girare in gambo. Vai, adesso vai. Dico, vicino, a pugna portante. Via. Razza di divertimento. Vabbè, lasciali giocare, con lì non gli piace così. Bisognava andare a mani lì, la razza di cazzata. Poi gli avevo, beh già, con già Franco, ho messo d'accordo, ti sei, sì. Papà. Sì, domani ci vediamo, pompando, perché domani mattina c'è una visita, adesso. Proprio domani mattina c'è una visita. Già non c'è problema, già è sempre disponibile quello là. Anda bene. Vabbè, ma non usci di stasera? No, io non esco. Loro non lo so. Poi, cosa fai? Te ne vai in casa oggi? Io non lo so, io. Ma vale sta. È una bella giornata di andarsene a pescare. Guarda che c'è il sole, ci sta bene. Vediamo se è una bella giornata, sì, andare a pescare. Andava. Qui c'è Videgni, controllo cosa ho, che ho pronto per vedere un po'. Se mi attacca buando, mi faccio un paio di lanci. Allora, ti tocca nel cuore, ce l'hai. Vai, devi andare a pescare. Sa che siete sovramodulati, cosa mi stavi dicendo? Ho detto, mi tocca e ancora ce l'hai. Ma che ce l'ho, sempre lì, Ho capito, vabbè. Andare. Io sto usando il toccai, in questo momento sto usando il toccai. Quindi non te la senti di aggiustarlo, no? Sentire già me la sento, ma non lo faccio. Non lo faccio, no. Io sono coerente con le mie idee, adesso. Quello che avevo deciso tempo fa deve essere così e basta. Ho sentito che ne hai un altro, così, eh. Lo sto usando in questo momento, non ti piace. No, è sempre, cioè praticamente funzionano tutte e due. Io tutti quelli che ho funzionano tutti, ne ho una decina, devo immaginare, ne ho anche conservati dentro gli scatoloni, ce l'ho anche da provare, tutti funzionano quelli che ho io, tutti li messi a posto. Gava. Quindi se tutti funzionano non avrai pure la gana da consanni qualcuno, no? No, la gana non è giocando di nuovo cosa da me e basta. Questa è una cosa che io ho deciso un bel po' di tempo fa, perché avevo certo le conclusioni che adesso non è che sto dicendo per te, però che nessuno meritava niente. Io parlo a livello di CB e di Baracchini, nessuno meritava di fargli nessuna prova, perché è così, sono sempre nella stessa idea. Non voglio dire che tu sia uguale a tutti quanti, per carità, tu magari sarai pure una persona seria, non lo metto in dubbio, questo no, però è una promessa che io ho fatto a me stesso, che non avrei fatto più niente e non farò più niente a nessuno. Ascolta, invece tu l'hai visto quelle l'An 48 che c'ho io, no? Secondo te cosa aveva piazzato in Chivi? Cosa c'era piazzato? Può essere che c'era la scheda per fare più canali, può essere che c'era la scheda ecco, come si fa a sapere cosa c'era? Può essere che c'era il VIP, tante cose ci potevano essere. Non lo so, visto e considerato che è stato malmesso con tutti questi volanti che si ritrova dentro lì, potevano essere collegamenti per qualsiasi scheda, siccome le schede ce ne sono di tanti tipi e dunque vai tu indovina qual era. Io ne ho una scheda di quella famosa, però è dei metri, mi stai capendo, tu ci hai mai compreso. Ma si potrebbe mettere in quello, in questo baracchino, nel 48 qua? No, perché non va in banda laterale quello, se non va in banda laterale non si può mettere quella frequenza. Ora già una cosa è eliminata, quindi chissà non si può punire. Allora o ce la leggo, o come stai dicendo tu, perché i canali di qua ci sono. Beh, io adesso stavo guardando nel 45esimo canale e sento, si sente, e io sento anche gli altri, quindi ci sono anche gli altri di canali, credo. Questo non lo so, devi vedere tu, può essere che l'ha fatto per 120 canali, può essere che l'ha fatto per 270 canali, perché ce ne sono tante diverse, non è che sono tutti uguali, no? Anche 80 canali ce ne sono schede, perciò ci sono le schede per i canali bassi, ci sono, e chi lo sa cosa hanno messo, e come si fa a saperlo, solo chi l'ha fatto lo sa. Ah, lo sa, mi già. Però lui si fa 400 canali solitamente con l'apparato lì. Ma praticamente adesso mi hanno detto che ce li ha questo 400 canali. Ma pensavo quante volte la Sabello si virà. Gioca col coso dei filtri, con la roba lì. Capito, sicuramente li hanno messi i canali. Non metto a sapere dove c'è il filtro. Capito o no? Si trasformava il baracchino per tutta l'Europa, praticamente per tutte le frequenze europee, capito? Però cosa ne sai cosa hanno fatto dentro, no? Perché l'ho uguale la parola quando Giulio, però non lo metto un cacco, lo lascio sempre originale. Lo so, anche io ce l'ho sempre quello, ma il numero io non l'ho mai toccato, ma passavo a te delle resistenze e saltavo in un altro punto e diventavo 400 canali, praticamente per tutta l'Europa, capito? Per la Russia, per l'Inghilterra, per la Francia, la Germania, eccetera, eccetera. E siccome sono palazzi che hanno la M, la FM, ecco che a un certo punto si possono fare quelle trasformazioni, perché ad esempio la Germania trasmette principalmente in FM anziché in AM, perché per il semplice motivo che in AM hanno 1 watt, mentre in FM gli concedono 4 watt, capito? Ecco qual è la differenza, ma è tutto un altro discorso. Ma lì ci sono tutti figli dentro, non è questione di ponte, quella è una cosa che hanno applicato adesso, probabilmente una scheda per me, ecco, una scheda che su io ho tirato per il motivo, no? Quella l'ho tolta, magari prima di vederla l'ho tolta perché c'è dall'altra parte. Però sì che abbiamo fatto così, anche, magari l'hanno tolta, dopo l'hanno usata in un altro baracchino. O perlomeno hanno fatto un tentativo, non è riuscito e l'hanno lasciato come era. Magari. È solo così. Io praticamente non sono tenuto, non è resistito a quell'individuo. Adesso, fatta aggiustare. Ah, ecco, allora è un altro discorso. Ah, va bene, allora. Comunque non sono bene in realtà, no? Io ti sento benissimo, sentiamo fortissimo, perciò non ci sono problemi. Pagando un soldo puoi fare due citi, si schedi, ma con 15 euro te ne compoterà un pareggio, non costano molto. Che bisogna saperli trovare alla piazza, è ubicato e chiuso. Basta portarlo da Luigi, Luigi te lo porta a Cagliari e te lo fa piazzare. Anche se tu vuoi, dipende da quello che vuoi, se tu vuoi l'eco ti compri il DL100, ci metti quello e hai anche l'eco, se hai bisogno di aprire e fare niente dentro il baracchino, perché c'è già il microfono incorporato l'eco. Tu dici di mettere il microfono direttamente con l'eco? Vabbè, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa come quello, come la modifica interna. Non è la stessa cosa, forse è anche migliore, perché tu basta sentire come esce Antonio, bombolo con l'eco, che è su tutto, esce benissimo Antonio, è in radio, e dunque non mi hanno messo l'apparecchio dentro, è quando con 29 euro non ti dici cosa 29 euro costa, non è che faranno pagare che su io anche il trasporto, ma anche quanto può essere il trasporto, 8 euro, 10 euro, quanto è duro, non so, Gianni, quanto è il trasporto? 40 euro, 40 euro, 40 euro, 40 euro, viene 40 euro, euro, lasciato, lasciato, questo è il microfono, piace, allora c'è anche lega, digitale, come è normale. E chi sarà, lo sa, il microfono che ti avevo suggerito, è quello che ti ha fatto sentire Gianni. È bello, eh. Magari troppo forte ce n'era adesso, già troppo eco c'era. Diminuito nelle giuste maniere già è carino, già mi piacciono queste cose, sia l'eco che quell'effetto elicottero che dà, è micidiale. Oh, esatto. Guarda, questo se ti piace, che sono perfetto. Con 30 euro, 29 euro, mi appare il discorso, il microfono è 10 di trasporto e hai risolto il problema, Alessandro. Allora, Alessandro, io ne ho un microfono, se ti interessa fatti sentire, te lo vendo io. Se ti interessa, se non ti interessa, pazienza. Oh, Alessandro. Dimmi. Guarda questo microfono, se ti piace con questo eco, guarda un po'. Questo è l'effetto elicottero, questo è bello forte, quella roba lì mi piace. Questo qua lo fa il microfono, eh? Un attimo, chi Massimiliano, avete allora, dovuto sentire io un nuovo antico il microfono con l'eco, adesso aspetta un attimo che cambia antenna. Giulio, abbassa un pochino con il microfono, troppo forte, magari troppo stato alla radio, capito? Ce l'ha fatto un pochino perché magari cambia un parecchio per il dimenticato. Ok, altro, aspetta, abbastanza adesso cambia parecchio e faccio sentire il microfono con l'eco che ho io ad Alessandro. Vabbè, riprendete, è già rientro un attimo. Quindi Alessandro, questo piatto non ti piace? Che cosa? Non ti ho capito già. Questo microfono che sto usando non ti piace? No, già è troppo. Però c'è un altro effetto, quello di coso, come si chiama, quello che mi ha chiamato poco fa, non mi ricordo mai il nome. Massimiliano. E KK, è tutto un altro bacio di maniche, ma puoi dire di no, quell'effetto elicottero non lo sento, micidiale. Ma quello lì è l'apparato, capito, non è il microfono, già vedo. Questo è il microfono, non tocchi nulla, metti il microfono e basta. E Rubi Incendi, che non ci abbia avuto questo baracchino, quell'effetto lì, quell'affare lì. Esatto, l'ho detto io, lo dai a coso. Dai, si chiama Luigi, gli dirò che se te lo fa, te lo fa fare, ti metti l'effetto di incontro lì del colore che c'hai, e ti controlla questi fili, cosa so, ti metti l'effetto di incontro, spendi 200 euro e te lo fai. Guardi. Eccomi qua. Ti piace questo eco? Poco. Ma già il togo, sembri... sega. Due cose di... Lubredi della Iesia, del cuore immacolato. Ah! È un dato di blocco. Non va bene, che vuoi di più? Quindi, se lo aumento, ecco, ecco. Uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. E poi lo aumento ancora, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. Se lo aumento ancora, uno, due, tre, prova, prova, ma la faccio. Io di solito lo tengo così. Ecco, io di solito lo tengo così a questo livello, va bene così. È chiarissimo giù, però dovresti, i toni dovresti regolare, andare un po' più di basso. E da dove gli hai detto, questo non è di questo passo. Non era questo. Ah, basta, basta, no, pensavo che fosse LinkedIn. L'M300, se non mi sbaglio, giusto? Il LinkedIn fuori centro, ho sentito l'altro giorno. Uno aveva in macchina un Intec fluorescente, non appariscente, fluorescente. Poi a poverino. di una personalità, ma non credo, però vediamo un po'. Riprendete che vediamo se metto questa resistenza, cosa succede? Giulio! Ehi, dimmi! L'altro giorno hanno attaccato e così tirante alla fumaiola. però ci dava mossa l'antenna. E poi ha messo le gravate. Quelli ci volevano, se no se ne piccavano. Le tegole. La maghiera. Avanti Antonietti. Tu la gravata l'antenna non ce l'hai, Massimiliano. Dove Massimiliano? Andate, santo. Beh, sente male. Pariti sono. Tutti fuori, tutti. Allora lei sa. Cos'è deciso? Io credo che sia indeciso con la stazione. Bianco Mattinino. Avanti, vai a fare il bianco, tranquillo. Ho detto, io vedo un po' indeciso cosa fare con questa stazione. È un po' di truffato di noi, me ne so. Si vede perché non sto più entrando, no, come prima e cose. Mi è passata un po' la fantasia già. E che stava che per l'antenna ti passa la fantasia, no, adesso. A mollare. Dove sta l'antenna? L'antenna è una cosa. La gana è un'altra. Ma bisogna vedere. Magari mi entra in mano qualche apparecchio e che ne so, è così. Tu te vedi. Perché io ce l'ho? Il diavolo rosso lo sto prendendo. Non ne ho troppo il microfono. Non me ne faccio da più questi microfono. Sto volendo un diavolo rosso, se ti interessa. Non saprei dove metterlo, in che apparecchio metterlo. Dicelo come. Puoi metterlo in uno di questi piccoli che ho io. Quanto lo stai dando? Io per imparare il carico, non lo dico qua. Come adesso Gianni, 1-2-3 prova, 1-2-3 prova. È cambiato qualcosa? Sì, la radio mangiata c'è un po', appena masticata. La radio si mangia, evidentemente non va proprio bene, ci vuole un altro valore. Un altro valore probabilmente ci vuole. E cosa stai usando? Prova, no? Sì, la Faietti. Ah, non è il 6-7. La Faietti, il Tensat, io lo conosco, non scappo. Questo qui è un intec microfono, un intec preamplificato, capito? La batteria svicchia da tanto tempo, non so se sta ancora funzionando bene, comunque già mi state rispondendo, vuol dire che mi sentite. Sì, ma sembra che abbia l'idea di attaccato, per intenderci. No, Lignare, pensato come aveva la cosa, ho già. La resistenza ci ho messo, infatti che l'ha fatto, cosa sta prendendo il pubblico che l'ha fatto? Ti ha bruciato il fusibile? No, quel fulmine mi ha bruciato quel Lignare famoso, me l'ha bruciato l'altro giorno. Certo, il Lignare e il regolatore di potenza anche me l'ha bruciato. E dunque volevo sostituire i finali a Lignare, però non c'è la sigla nel corso. Tu non è che per caso hai lo schema elettrico di quel Lignare, quello famoso? Può darsi pure, non lo so, ma mi pare che ci sia solo una distruzione. Devo controllare, ti faccio sapere. Ok, controllo qua, parla con te via. Perché se si può riparare non lo parlo, solo lo butto via, esatto, non se ne parla più. E quello che ho parlato la volta scorsa me l'aveva bruciato, capito? E io non c'ero a casa, qui era tutto quanto attaccato, anche se lo aspetto, poi il fulmine non rispetta niente, capito? E bisogna staccare le spine e le antenne sempre, quindi scarica il tempo. Cosa ti stavo dicendo giù? Ma non conviene secondo me aggiustarlo, perché il filare a mosso ti costa un bel lineare, costa un quarto lineare intero. E appunto, ma io se avessi saputo io le sigle di quei filari, avrei prima chiesto, d'accordo, io ci vado sempre, ci vado tutte le settimane, Giovanni, e sono... perché c'è un certo rapporto cliente negoziante, ho capito, l'anno scorso ho occupato il corso, un'antenna l'ho piazzata a mia sorella per digitale, di questa settimana mi sono occupato un altro box digitale per la camera da letto, insomma, e sono più capicchini, sono state comprate, finuti e prolunghe, questi, quell'altro. Scusa, dai Gianni, quando la dice lì, perché mi viene il passaggio, capito? Ma lo sa come sera, faccio il giro in Santa Maria e mi viene benissimo. No, io gli ho messo la croce, così non ci vado più. Vabbè, non me ne frega niente, seppure costa qualcosina in più quello che ha, però non me ne frega niente. Preferisco aiutare lui, che è uno che sta iniziando, diciamo, anche se ormai c'è già un paio d'anni, che magari che sono io, andare a posare su, non più il parcheggio e tutte queste cose qua, capito? Non, quindi sono andato negli anni passati, ma adesso vado lì e non se ne parla più. Sono stato il primo a buscare i clienti, cioè praticamente il primo che ha comprato roba dalla 27, che gli ha consigliato cosa ordinare, gli ha portato clienti. Ho comprato un microfono, ho detto, ma quella batteria mi ha regalato, perché se me la regalava no, io la pago, ah vai, miserabile. Lo so, quello sì, e anche l'altra cosa, perché qua che gli è rimasto, poi gli è rimasto un corso, come si chiama? Un accoppiatore d'antenna gli è rimasto, va per la 27 e per la V, va 10 euro di lavoro, però dopo che posso, non faccio niente, se per quello conto 40 euro suo, io non se ne parla più, ma penso la conto 40 euro suo e basta, lo vedi lo stesso, tanto via a cambiare, a fare, trasformarlo, ma anche quello, con l'antenna della 27 potrei trasformarla in V, non lo farò niente, capito? Come un accordatore, là. Un accoppiatore di antenna, dai, non ricordo, va bene, dici, perché la trasforma in V, va. Non è mai come un'antenna VHF, comunque. Ma se no, qualsiasi antenna VHF, anche di macchina, va bene. Certo, quello sì. Ah, ma poi per comprare quella, la 70, mi compri l'antenna V2U, addirittura, ma non è il caso. Beh, tanto le sue frequenze che ci interessano, no. Però a me no, non ne ho mai avuto io. La pagava. Cosa ti stavo dicendo? Vabbè, speriamo che ne apra qualche altro, così la concorrenza ti magna. Quello sì, non ci sono dubbi. Aspetta, adesso ne ho cagato la resistenza. Ma il microfono si è avvicinato, no. Ne ho tagliato la resistenza, ne ho tagliato adesso. Com'è adesso? Poi farò passaggio. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ho tagliato la resistenza, una parte è ancora saldata, l'altra parte no. E io sto andando bene. Ma io lo sento bene. Allora già va bene così. Allora, la stacco e via. No, ma volevo... Cioè, ho messo una resistenza in parallelo con la capsula. Un certo valore per avere un'impedenza maggiore, per vedere se riuscivo a cambiare la tonalità, diciamo, capito? Ma se tu mi stavi dicendo che l'avevo peggiorata, allora tanto vale lasciarla originale, com'è? No, è molto migliore adesso, è giusto. Io l'ho peggiorata, là praticamente aveva solo acuti, non c'aveva bassi. Ho capito, sì, ho capito. E vabbè, già va bene così. E questo è molto sensibile, perché anche a distanza un microfono va benissimo, lo posso tenere anche allungando tutto il braccio e prende bene. È un Integer, dai. E io non metto l'accento. Beh, diciamo che non è proprio quello, ma è simile, dai. Qual è quello con la retina? È una cosa del genere, sì, c'è una retina davanti, sì. Io ho capito, lo stavo vedendo anche su internet tuo. Ok, ma comunque penso che il numero sia sempre quello, dell'M300, capito? Yeah. Antonio. Similiano. È morto, sarà buonissimo. Va bene, Antonio, non hai capito. Antonio, vieni fuori. C'è anche Massimiliano e... Ecco, se, ma Alessandra. Attimilia! Mi state chiamando già. Ripeti Alessandra. Deve avere una confusione, ma lei ha visto che si può già cantare. Giulio era. Ma Giulio tu sei, c'è. Non te lo stavo riconoscendo, no? Perché la voce da tenore. Lui adesso si lo buccureggi. No, ma che sa, ho invitato l'Antonio a uscire fuori, lui si è d'accordo. Tanto i problemi per la chitarra non ha, che li fa zero fratello, dopo si può una cantata, e sono la chitarra. Ah, vero, la chitarra costruisce. Fratello, sì, ha voglia. Ha fatto la chitarra per tutti i gruppi di Zattari e di Arradina. Ha fatto. C'era tanta gente, c'era la chitarra fatta da mio fratello. Dal più piccolo, mio fratello più piccolo. Almeno. E ne fa molto, ma molto bene. Andiamo con ogni cosa di materiale, perché fate fare il materiale fuori, no? Con proprio il materiale giusto, adatto, per fare la chitarra, eccetera. Però per esempio dentro io lo ricuccio a ogni chitarra, il materiale. E poi naturalmente lui se la prende 2.000 euro, 2.500, dipende dall'individuo. C'è quello che gli fa un prezzo migliore e c'è quello che magari glielo vuol vendere più caro, secondo anche chi è, capito? E secondo il tipo della chitarra. Cioè è una bella cosa costruire strumenti, aspetta. A me mi è capitato da poco aggiustare un saxofono, già sono riuscito, l'ho risaldato tutto quanto. Ok, beh sì. E lui queste cose le fa già da anni, è tutto ben attrezzato mio, ti puoi dire, ha tutta l'attrezzatura appropriata, proprio per fare quel lavoro. Ha anche la serranata piccolina, proprio per tutti i piccoli taglietti che deve fare, ha tutto, va, tutto, i morsetti alati, cos'è che lo fa? Tutto quello che ci vuole. Cioè, praticamente lui ha piazzato un laboratorio, anche se non lo fa per vivere, lo fa per arrotondare, perché lui lavora al forno, lavora all'ATP, dunque nelle ore libere poi si mette a fare questi lavori qua. E nel frattempo fa anche quadri, eccetera, e un paio di anni fa ha fatto anche la mostra, il civico, e insomma, è un tipo che si dà all'arte, dai. Conosco qualcuno così. Scrive canzoni, insomma tutti i tipi di cose, insomma lui ha la vena artistica nel suo sangue. Già lei riuscì così lo combina nel negozio, cosa stavo facendo qualche cristo quando sei venuto tu? Qualche cosa? Ehi. Sì, un cristo stavi facendo. È anche grande. L'ho esposto al bar che c'è di fronte alla chiesa qua. E gira adesso me lo levo, ne metto un altro e ogni settimana lo glielo cambio, capito? E mette di vendere così? Sino ora solo uno ne ho venduto, no, se l'ha preso lui, l'altro non ha né di no. Quartiere popolare non è che lo stia dando eccessivo, per esempio quello che ho messo lì lo sto a 200 euro gaggati, vabbè dai. Ce l'ha il vuoto anche. Considerando che c'è un sacco di lavoro dietro e lo sto regalando, ma vabbè, e Giubbaetti, io adesso non lo tolgo, lo metto da parte, già ne ho un sacco adesso, già una cinquantina, voglio arrivare a farne almeno un centinaio e faccio una mostra. Ma non sono tutti che apprezzano queste cose, capito? C'è quello che le apprezza, c'è quello che non piace, quindi è misto il pubblico. Ma a chi è che non piace avere una tavernetta in campagna o anche a casa? Queste cose vicino a un caminetto ci stanno... va bene. Sono gli amatori che per queste cose naturalmente si appassionano e li comprano, perché no? E lo sai, la gente varia, no? E dunque non è un problema, c'è quello che magari non le piace e non le prende, ma ci sono quelli che sono appassionatici, è un po' come i mobili, ci sono quelli che le piacciono i mobili sardi, tipo Casapanca, Piattiera, tutte queste cose qua, tutte quante intagliate, eccetera, ci sono quelli invece che le piace la classica cucina o il classico mobile, quelli moderni, oppure quelli addirittura classica nello senso della parola, capito? Non siamo tutti uguali, è così. cugino, il cugino di mia moglie ce l'ha, la piattiera giù nella, dove ha messo il cammino, nella villetta. La taverna ha messo la piattiera e il tavolo di legno rustico, tutte queste cose qua, però l'ha fatto solo lì, poi tutto il resto della casa è diverso. Sì, beh, ognuno fa, io mi ricordo, ad esempio, quel genere di mobili andava forte negli anni 70, andava fortissimo quel genere di mobili lì. Infatti mi ricordo che ho fatto tanti in stile sardo e soprattutto facevo di castagno sardo addirittura, oppure in noce sarda, era proprio il legno più adatto appunto in quel periodo, questo tipo di mobili, sai, dai paesi venivano, te li ordinavano e si facevano, ne facevi tanti anche. Poi hanno cominciato anche tra loro i gusti a cambiare l'idea e a cambiare la moda per certi mobili e poi si sa, prima si incomincia con un tipo di cose e poi si va avanti col tempo perché si stanca oppure perché magari ne ha visto un altro che gli piace ugualmente e lo vuole cambiare. E succede così, no? È un po' come noi, oggi ti dà una macchina da voi, domani la consumiamo, la invecchiamo anche alle volte quando ancora è molto buona, che può andare avanti ancora per anni, però te la cambi perché magari ti piace un'altra, capito? Sì, ma le macchine bisogna venire. Con le macchine oggi bisogna andare piano perché si sa, sono costose e il prezzo è altissimo e di conseguenza bisogna cercare di appunto. Io sinceramente le macchine le ho sempre consumate, non sono stato mai amante diciamo così del consumismo. Io ho consumato la macchina ma non ho fatto mai consumismo con le macchine, non so se mi spiego già. Sì, non le ho mai buttate su già. Praticamente c'è gente che per dire tiene 6 mesi pure cambia, 7 mesi. Quello dice che non perdono valuta, perdono meno valuta quando è così. E appunto, non è che io ne ho avuto tante, ne ho avuto le macchine, e tutt'oggi raggio lui, ce l'ho questo fatto vecchio che ho, e poi ce l'ho l'altra nuova, la Ford Fiesta che è nuova lua, fa appena 20.000 km, 22.000 km, se tu puoi immaginare, sempre sotto la finestra di casa, non si usa mai, raramente, qualche volta la usa mia figlia. Tu mi dirai, quante mai lei dice, perché? Perché quell'altra, quella rossa, quella la uso per lavorare, la carico, la faccio, non sempre uso motocarro, capito? E dunque mi è molto comoda quella, anche perché ha un portabagagli grandissimo, un cofano grandissimo, ci metto carta di ferro, ci metto macchinette per tagliare tante volte, anche che andare fuori col motocarro mi disimpegno con la macchina, perché tu mi dai, perché prendi il motocarro lo stesso, no, non è lo stesso, perché se devo salire su, se andavo a andare un posto in una casa a lavorare, io magari mi porto su la cassa degli attrezzi, dei ferri e poi magari la macchinetta, anche se so che potrebbe non servirmi, però ce l'ho a portata di mano, se per caso mi dovesse capitare un qualcosa e è necessaria la macchina, scendo giù, apro il portabagagli e ce l'ho lì, senza stare lì a perdere tempo, andare in bottega, capito cosa faccio già? Beh, poi se piove non è che puoi portare tutta questa roba dietro col motocarro, nella macchina ce l'hai coperta la roba. Appunto, anche per quello, e soprattutto è più sicura anche dentro il portabagagli, io non è che la posso lasciare nelle cose, nel sopra il motocarro, così da dove vado a burro e c'è più di nulla. Ti alleggeriscono il peso. Appunto, perciò. E così è, avanti Alessà. Alessandro sei andato a Passiglio, immediato. I drummiti ci sono. Tu sei la figlia di un giorno, Antonio. Bombolino, cosa fa nel mio giardino? Ecco, avanti. Che ho fatto di Antonio Riserva? Avanti. Buonasera a tutti, grazie Cristian. Ciao Cristian, e beh, come va? Dove ti vai Cristian? Attimino. Che si muove da qua? Secondo te io mi sto muovendo? Taglio il microfono in mano. Come fa lui? Sulle braccia di tuo fratello, che è stata per l'antenna, tu l'hai fatta? Non so se sul testo, tu e io sul resto. Ah, tu dici sul testo che sta mantenendo l'antenna, così? L'ho messo come staffa. È stato bene. Oh, Gaglia. Vabbè, hai visto Gianni che è rientrato Cristiano, Cosa giù? Hai visto, ho detto, che è rientrato Cristiano? Sì, sì, l'ho riconosciuto subito io. Subito, subito. Come è entrato il primo giorno e Cristiano parlava molto con me la sera, quindi anche se è mancato un po' di tempo l'ho riconosciuto subito. Lo so, quello sì, è vero. Ma no, io non l'avrei riconosciuto. Però un mezzo sta venendo qui, dai le mani. Anzi no, dava chi. Oh Cristiano, pensa che di quanto ti ho visto mi sono stanco di vederti. Sto scherzando. Ma tu sei di radio? Io sto ascoltando con le orecchie, poi i problemi non ce ne sono. Vabbè, va bene, dai. Va bene, dai, Cristiano, non ti preoccupare. Campagnati. Basta. Oh, un attimo bassissimo. E come mai? Tu devi fare così come ti ho detto. Ci metti Antonio sul tetto, ci fai mantenere l'antenna in alto. Però se non quella bassa che devo volare la staffa, da tutto. Cosa c'hai? Morsetto la portetta. Ah, quello che si infila con il passetto. Io so, quando mi passa, non si dice tutti, mi sento al buio. È come se fa un'antenna, ho uscito la portetta. Ah, io c'ho i morsetti normali. E poi si può andare sopra, così non so, non può fare la stanza, però. E io vabbè, ma se la finisco non vai quelle lì. No, già non si può finire, non lo so, ma grazie alla basta, se la può pagare il palo. Ma, e quella quanto lo metti il palo? No, ma ti muro. Ho detto, ma quanto lo metti, quando lo metti alto? Questo è il tuo televisore, mi sa. Ma stai facendo qui, stai disturbando la televisione, quindi hai detto. Mi sembra di sì. E vai, che non è possibile, guarda, mi sembra di sì. La televisione digitale, come fai? Già è possibile, giù. C'è gente che l'ha disturbato digitale. E addirittura, caspita, mi sembra strano. Mi basta attaccare lì, a che cosa, dove si disturba? Ma vabbè, quello non lo so. Quello no, non lo so, perché io non attacco niente. Tanto più che non lascio più la vada ad attaccarsi, che... Tutto bruciato. Ma lei aperto a vedere cosa c'è solo in finale o cos'è? E te l'ho detto, l'ho aperto, e ci sono i finali che sono a contatto con la carcassa, no, per il raffreddamento, però non c'è la sigla, e se no cosa avrei fatto? Avrei preso la sigla, sarei andato a chiedere se valeva la pena comprarli, l'avrei cambiati, ma se non c'è sigla, che cosa ti dico a quelli? Cosa mi dà di Guido? Quando mi viene a risolvere non fai un buchito di. Basta andare al coso, alla GBC che vendono quei lineari lì, e gli dici due finali da 100 per il modello CT International. CT International 747 lì. E tu pensi che quando ti dice sì sono questi, che poi non sono questi, magari te ne fa pagare 7-8 euro l'uno, ce ne sono 4, ti puoi immaginare, tanto vale che una telefonata che proprio mi interessa te lo faccio arrivare, ma è perché lo volevo recuperare, capito? Non è per altro, lo volevo recuperare e basta, capito? Capace che se io dici te lo sa quali sono, 747 deve essere lui a Sassaria. Vabbè, non lo so se c'era solo lui, ma penso di sì, anche perché di questi negozi non è che ce ne sono poi così tanti, c'è Fusaro, Classi, e poi chi c'è? Non Classi, quello che è morto, no, Classi, cosa corrente i pezzi di ricambio. Guarda, gli altri vendono tutti quanti ZG, non ne vendono CT, e ZG fanno schifo, a me non mi piace. Vabbè, però sì, in effetti la ZG ha fatto sempre delle cose un pochino scarse, un po' scadenti, diciamo, dai. mentre invece altre fabbriche magari, boh, non lo so. E vabbè, e cosa vuoi fare? Lì si è arretrato. Giulio, cosa succede? Cerca Giulio su internet, adesso che ci penso, qua su molto di ricerca, metti finali a MOSFET modello, a lineare modello 7477 e vedrai che ti ridà. Avete fatto quel lavoro, quella cosa lì, oh. No, non ho fatto niente, ho già. Poi ci pongo io sotto un'altra voce, magari, già ci riusciamo a trovare. Adesso hai il computer, la portata in mano, ce l'ha, no? Non ce l'hai vicino alla stazione. Vabbè, già lo provo, casomai più tardi ci provo io, quando scendo giù al piano di sotto. Stavo dicendo, Cristian, cosa succede? Cristian! Giulia, come parla? Cristian, ma cosa c'è di zegna? Tu cosa sai che non ci ho capito niente? Cristian, cosa hai combinato? Adesso c'è l'antenna, è già terrestre. L'antenna terrestre? Beh, cosa vuol dire? Perché? Abbi due, hai qui. Cristian, ma chi non è che sei il buccione, un 18? Antenna terrestre. Per me è l'antenna. Antenna spaziale, deve essere. Ma, sai che cosa è combinato, Cristian? Se non abbiamo capito un H. Ma pure con la mente l'antenna attaccata al palo della televisione? No, Allora Salvatore è incazzato in questo momento? No, ancora no. Ecco, Salvatore qui nella cavola dell'antenna, e lei che si trova tutto. Ma come fa a disturbare? Con la digitale? Non ho mai toccherà nuova nuova, l'ha vista in un garage, l'ha chiesto della latta, ah, quello lì. Strano. Comunque digitale sento gente che ha disturbato. Non disturbo a casa perlomeno. Già, io qui c'è la televisione accesa, anche pensa un po', è vero, benissimo, no, non ci sono problemi. No, non succede niente, insomma, va bene così. Ma tante volte lo sai, aspetta che mi sta portando la telefonata della nonna, mi senti? A proposito, voglio dire già, lo sai che sull'analogico io mi cerco un canale francese, e non chiaro come immagine, ma in maniera molto accettabile, nonostante che l'analogico è spento completamente, e mi entra un canale francese. Iniziamo. Cosa? Cristian? Senta che c'è, che l'Italia sta vincendo 5-1. L'Italia sta vincendo 5-1? O perdendo 5-1? Vincendo. Ah, veramente? Stiamo perdendo 1-0. Così, ma dite, ma esulta, ha detto che stanno vincendo, Lo sai cosa fa mio figlio? Telefona alla nonna quando non sa cosa fare per sentirla e mettervi la voce, no? Poi si fa i giochi su e cosa la nonna fa e lui risponde. Ah, così è. Aspetta che controllo, intanto nel frattempo controllo la situazione qua. Allora, forse è vero che il caso gli sta dicendo, senti, ma io che la cosa andava a me, se usi andava a me. Vediamo un po'. Tu mi ha detto una cosa, però non ho capito nulla perché Marco mi ha portato il telefonino, il telefono con la voce e non ho sentito quello che stavi dicendo. Stavo dicendo che il canale analogico adesso non c'è più, no? Però me ne entra uno, ma lì era molto accettabile come immagine, e il canale francese, io sulla televisione, che ho in salotto, mi entra un canale francese con un'immagine molto ma molto accettabile, non è perfetta come quella che abbiamo noi sulla digitale, però si vede bene, si capisce anche bene quello che dicono, proprio bello. È capace che adesso che non è disturbato dal dato dell'analogico entrino anche reti estere, capito? Ma io mi ricordo che quando avevo il televisore, che era Rex tra l'altro, me lo ricordo bene, a casa di mamma, con quel manopone che giravi le frequenze, riuscivi a beccare i cavi francesi, spagnoli, un po' nervati, però li vedevi. Sì, ma questo è già detto, questo non è di preparazione, questo è proprio arrivo diretto. Suppongo che sia il canale 21 della Francia, 21 nel senso come numero di canale, no? Credo che sia quello. Infatti stavo pensando, adesso siccome ce l'ho anche, io da brigantinista cosa faccio? Ci metto l'amplificatore e lo rendo visibile proprio bene, come il digitale quasi, capito? Cavolo. Ma tu c'è la parabolica, probabilmente per quello lo ricevi. No, questo lo ricevo con l'antenna del digitale, non con la parabolica. La parabolica è tutta un'altra cosa. Non c'è la parabolica nel salone. Io sto parlando del salone più. Qui la parabolica è solo qua nella zona notte perché ci sono certe immagini che alle volte non si possono vedere, capito? Nel senso che gli altri capisci. E tu si guardi i filmini? No, ma non i filmini, io non me lo persogno. Infatti ieri ne ho cancellato una cinquantina, ne ho cancellato la ruota, Lucio, tutti, proprio eliminato il canale proprio, perché si possono eliminare, capito? Vabbè, tanto chi li guarda, siete tutti grandi a casa tua. Sì, va bene, quello sì, d'accordo. Ma sai cos'è? E alle volte magari, se ce l'hai giù un segnale, cosa succede? Che alle volte vengono, magari qualche minuto, si mettono il cartone matti e magari col telecomando capitano proprio su quel canale un po' sporco, diciamo, in quel senso. E il bambino va bene, capito? Allora li ho eliminato tanti, però tu se non li puoi eliminare, perché io avendo il motorino che gira la parabola e da tutti i satelliti, come faccio a eliminare questi canali da tutti i satelliti? È quasi impossibile. Infatti. Ma poi anche se tu vai nei canali normali, queste porcate ce ne sono sempre, ci sono quelle 899, sempre oggi di canali. Mio figlio che vede nulla, cosa girando i canali. Adesso per dire, lo puoi fare con il digitale terrestre, ti scegli i canali da girare, però prima giravi e magari ti capitava in mezzo. Appunto, infatti potevano capitare, adesso ci sono qui, col digitale dunque, allora, col televisore, col digitale così integrato dentro il televisore ne prendo 118 canali, mentre invece col box, vabbè che io ne ho 4, ne ho addirittura di box digitali, e con uno ne prendo 159, però ce ne sono di questi che non sono occupati i canali, nel senso che non trasmettono, c'è il segnale, tutto quello che vuoi, ma non trasmette perché non c'è programma, capito? Ehi. E vabbè, comunque, già ce ne sono anche truppi adesso. Anche truppi, se uno si mette a girare tutti i canali, tu pensa nella parabola 4800, esattamente quanto ne prende il decoder satellitare, 4800 ne prende. E già uno di andare a letto, di dormire, perché è meglio avere pochi buoni. Ma io ti dico una cosa, che per me il televisore potrebbe anche non esistere, guardo solo telegiornali e documentari, ma io già lo guardo tutte le sere, già guardo la notte, infatti mi scurico sempre intorno alla mezzanotte, tutto perché guardo la televisione. Tante volte, quando mi curico un po' prima, allora facendo il baracchino mi metto ad ascoltare, ma tutto sommato ho notato che io adesso, dopo le 10 e mezzo, 11 o 20, ma sono le 11, non c'è più nessuno che pensa, che non posso nemmeno ascoltare. E allora una volta, allora questo buon video della televisione qui in canale, perché c'è anche il canale, capito? E a seguito c'è giù, prima ci trattenevamo anche fino a luna e cosa, ma tanto qui ti crei problemi, c'è questo vicino che bussa il muro e cosa, sempre gabbozzi. invece quando rispetto l'orario, vabbè che anche prima lo rispettavo, mettevo le cuffie eccetera, non è che sentiva, ma deve sentire a me parlare, quindi si rompeva. Ma parolacce, coso, io molto diplomaticamente, ma proprio da giudizio dite, ma chi c'è una voce a dire, ma cosa vuoi? Ah, cosa vuoi? Ho detto, vai, girami, si metteva a bussare il muro, a spaventare il bambino e tutto. Lo so. No, purtroppo c'è gente che non sa convivere, nel senso che qualsiasi cosa, basta che vada una mosca a volare, non è partito tutto. Quello si sarebbe voluto qui, dove abito io, che vengo a fianco, va, sempre sempre della balena, sempre pestando, e abita 5 anni qua come me, e si incende sempre facendo. Io, vabbè, io il lavoro ne faccio il sabato, domenica, quando le devo fare, ma le faccio sabato e domenica, ma chi ti doia lì da una zona d'asilo, addirittura mi entra e interrompe il suo lavoro, che sta lavorando sotto principale, però è uno di quelli che va in giro a riparare, eccetera, no? E entra, arriva per la sua, si fa addirittura di lavoro, poi se ne va, dopo un'ora ritorna, una mezz'oretta e se ne va, e così via, capito? Alle volte, questa sala si sarebbe fatta apposta, tutti hanno lavoro da fare, sicché arrivano rumori da tutte le parti, però non me lo frega più di tanto, capito? Ci sopportiamo tutti quanti a vicenda. Ma infatti io vi lascio vivere, se non ce la fa stare così, o che si prende una villa in campagna o che se ne va a casa serena. Infatti, se non c'è quel buono silenzio assoluto, si manda un camposanto, lì c'è silenzio assoluto. Ho sempre continuato a fare ciò che mi pareva, sempre rispettando le regole condominiali, capito? Perché a lamentarsi, ha cercato, ha telefonato i condomini per vedere se metteva la firma per farmi chiudere l'antenna, ma tu bocca di cagarla. La gente è così, sai, ho fatto gelosia, che ne so, lo so perché la gente diciamo un pochino, ma se è presuntuosa non direi, perché questa gente qua è convinta di sapere tante di quelle cose, perché poi in realtà non ha capito niente della vita, non sanno che ci sono degli orari, se uno rispetta gli orari, e i rumori domestici che si possono fare sono accettabilissimi, sono anche accettati dalla legge, non puoi nemmeno protestare, a meno che uno non si metta a due volte, si attacca una macchina o si mette a martellare, eccetera, eccetera, dopo le 11 diciamo, ma fino alle 11 di notte, si può lavorare, si può fare quello che uno vuole, dopo le 11 invece deve essere silenzio assoluto perché chiaramente si deve dormire. Ma se protestava quando teneva la bambina che era mia nonna, poi ti trovava di strada e diceva io bevo un caffè, io ce l'ho messo con i della Giuditta, ecco, io con i garroni non ci vado a bere, capito? Se tu mi devi dire qualche cosa me lo dici in faccia, però non a protestare a dire parolacce e cose, io non siamo più abitati. Ma non è preso niente, è meglio lasciarli perdere quelle persone, fa carità, anzi è meglio cancellarli proprio, cancellare non la loro esistenza, ma fare finta che hai cancellato o che è stata cancellata la loro esistenza, capito? È meglio lasciare perdere, fa carità, e ora mi fai, per carità, vabbè io ogni tanto qualcuno già si bisticcia nella zona, però ci facciamo i fatti nostri tutti quanti. Anche se poi magari va raccontando la stessa persona in giro, che poi anticamente vuole andare a futtare niente, non lo so, pubblicità. Perché cercano sempre che gli diano un appoggio morale, capito? Questa gente qui che lo racconta solitamente cerca un appoggio. Lui lo sa cosa mi ha risposto, che devo cambiare il tema, perché lui doveva andare a lavorare. E mi ha detto, cosa vuoi, mettere il fatto in bocca alla bambina. Lui è, prova io, non è possibile. Vediamo un po' se Cristian, quella con me, Cristian. Cristian c'è, buonasera a tutti, Cristian. Luca, Cristian c'era, allora. Era per l'anno, casa mia. E allora gli ho detto, sabato al Wabo, prima non te ne puoi dire a capo. E lui ha detto, che ha fatto così. Cristian. Con digitale se ti vuoi. Ma vai. Ehi, ho detto che sto facendo TV, che c'ha il televisore vicino e che dice che secondo lui l'antenna che non serve. Ma è malissimo, TV, bravo, ok, c'ha anche la vicina a delle cose. Ha l'antenna vicina. Così ha detto, tu il visionario cos'è, se effettivamente così, o se magari un televisore vecchio di quelli che la mia frequenza si raccoglieva tutto, anche le trasmissioni di Giuseppe di Monte Carlo, che sono santa. Scavo Luca, ma la radio tu mi ascoltate la radio digitale? No. Manco io. Ma come funziona? Ah, sì. Ma c'è TV radio, ti schiaccia per radio, poi ti schiaccia per TV. Ah, c'è un commutatore, capito. Oh, mi ascoltate. Comunque si può fare, visto non c'è più bisogno manco della radio in casa. Sì, ci sono una decina di canali all'incirca, c'è 1, 2, 3 dalla radio, c'è cioè il programma nazionale, il secondo programma è Rai 3, no, Rai 1, Rai 3 della radio. Poi c'è Radio Internazionale, Radio Capital, poi cosa c'è? Non me la metto più, comunque ci sono una decina di radio, già. C'è la Temiere, tutte quelle che sono famose, 105. No, quello c'è Radio Lina, non c'è quello, la Temiere non c'è, Radio 105 non c'è nemmeno, no, quelli no. Ce ne sono una decina, io lo prendo, così. Comunque, accendere il televisore per ascoltare la radio mi sembra una cosa un pochino così. Se accendo il televisore accendo per vedere la televisione, se tu non accendi la radio, accendo la radio, io penso la penso così. Beh, tu perché c'è tutti e due, ma sei un po' varaccio che facevo il televisore, un po' più da burrata che la sei accorta in chivi. E la cosa, che sei un po' varaccio che stai vedendo tu, o che pensi che sia appunto un varaccio così come dici tu, prima ha buttato, si è comprato la radio, poi si è comprato il televisore, stai tranquillo. Boh, non lo so, non lo conosco, lo giuro. Vabbè, che ha ragione comunque, che ne stava dicendo 5-1. Luca, ieri sei andata bene lì, non ti recupero riuscito a segnare l'Inter, il terzo gol. Vinto! Ha vinto, sei la tua, hai vinto. Così, Giulio, sempre primi siamo, l'Inter, la Juve. La Juve ha vinto 2-0. Regina. Io, andiamo. Attenzione, Cristian. Adesso scendo giù un attimo, dai. Adesso devo scendere giù a fare merenda. Ci sentiamo forse più tardi. Se non viene qualcuno, ma adesso stava per venire sicuramente mio fratello, mi da un momento all'altro arriverà mio fratello con mia cognata, sicché sarà poi difficile che riesca a salire e poi attaccarmi di nuovo al baracchino. Noi ci sentiamo, là, io sono giù a fare merenda e dopo, se è possibile, se non viene mio fratello già risalgo e poi riaccendo. Ciao Luca, ci sentiamo, Cristian, se si è all'ascolto, l'antenna a capo di acuto la Guglio ci ha fatto bene, vabbè. Ciao Giacchia, riprendi, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo. Avanti, come si chiama? Luca. Qui, Antonio, abbiamo 12 galetti in connaggio. Ne ho due, adesso mi ripeto, però ci vado per conto, faccio un salto. Anche io ne ho due, ma non faccio mai quelli di là per me fare a me. Sì, non vi giuro faccio di là, io non faccio più di là, vado a cacciare le monete. Via, mi fanno male le sigarette a parte gli scherzi, dai. Adesso fumano sigarette che tu... Via! Tu, niente che fumi, sono bellissimo, non ti amo neanche. Che sigarette sono? MS... Non ci arrivi. MS Tigare. Gianno. Anno. Cazzone 4, in continuare sono 4 e con la radio 5. Non ti danno. Ma le MS mai se non mi piace a me. Sto fumando camera, ma non mi piace di più di Macuisci. Dove fumare multifitter per avere le mie sigarette ideali. Esatto. No, se fumo un po' se lo punto a capo, gli acqua fanno mai essere qua. Allora io ieri ho comprato il pacchetto, ieri mio Paolo ho fatto la cortesia di comprarmelo, me l'ha portato verso le 6 di sera, verso le 2:10 così di notte, avevo fumato già 18 sigarette. Sto fumando perché quando sei a casa o mangio fumi, io per mangiare preferisco fumare. Noi a casa non so cosa fare, eppure la cosa da fare ce ne ho. Non è che non ce li ho, solo che non mi piace stare a casa, mi piace uscire all'aperto. E se mi pongono in galera, crepo in due lì. Ah, vero? Non ci riesco a stare al chiuso io. Anche il magazzino, quando per dire non ci sono viaggi da fare, che mi dico, già, se voi ci stai in magazzino. No, mamma mia, non mi basta più. Vabbè, non so, io ho fatto magazziniere, non so. Non so cosa vuol dire, capito? Uno che c'è lavoro a gogo, perché lui sta sempre spostando il pedale, facendo, mettendo a posto e cose. Due che sta sempre al chiuso. Anche se ci sono le commesse che vengono, ti fanno la battuta ogni tanto e cose, ma sono stato sempre abituato a essere un uccello libero io. In gabbia mi trovo male, vedi, a me se tu mi fai fare una giornata intera di pesca non mi stanca, mi piace perché sono all'aperto. E mi dici, ah, ma lì a casa si arrabbia, mi divento anche nervoso, fumo un bel... Io ti credo. Se così divento ansioso, non vedo l'ora che passa anche sul cazzo di dosso. Per dire, stamattina non c'avevo più nulla, ieri, ecco, stamattina mi sono alzato e comincio a barcollare, mi sono sbattuto l'armadio due volte, infatti si è alzata mia moglie, mi ha detto, ma c'è male di nuovo, ti senti? Ho detto sì, mi ha fatto sedere, mi stavo sbattendo da una parte all'altra. Ma non si è ripreso, non ti è passato? Sì che mi è passato, ieri non mi è venuto avanti, non mi è venuto niente, e lo stesso. Non tiene qualche episodio a letto, però roba da poco. Stamattina mi alzo dal letto, torno a barcollendo come c'è un coso. È brutto, eh? Allora, la prima volta me l'ha fatto, ok, sono stato un bel male. Stavo già che hai raccontato. E beh, Luna, vieni. Sta pulita, zio, eh? Se te la va, ridela già. Diglia, tu cosa hai fatto, ridela già. risa canali, account, chat, news, download, forum, staff, questa roba qua. Tu vai su chat, la sto facendo io per te, eh. Poi una volta che ti apri la pagina, vai a cuccia, metti il tuo nickname, ok? Allora ci facciamo a caso, dai, metti questo qua, HVH, abbassa per la pagina, e c'è scritto entra in chat, ok? Entra in chat, aspetta, tutti cosa dico, è facilissimo già, una cazzata. Però mi è uscita la pagina dove c'è la tele chat, quello che non ho capito ieri, che in che chat eri tu? Quello c'era simpatia, c'era scritto amore, c'era scritto amicizia, c'era scritto un sacco di roba. Però non capivo qual era la chat dove tu entravi, la finestra, proprio la stanza tua. Di solito non ci entra, ma il canale del trovato il coso canali. È trovato, è scritto qua la cosa blu. Eia, è tutto pasticciato sembra, eh. L'ho trovata sì quella pagina, però non sapevo dove entrare. Ho provato a entrare la prima niente, la seconda niente, poi tu mi hai detto questa siciliana, ho guardato, mi vedevo, allora ho preso, mi sono stufato e ho chiuso. Allora, ecco tu fai, adesso io sono la prima pagina, non so neanche che ci sia questa qua, non ha un nome, se mi metti su il campo quella Dirk Gate, la chat ufficiale Dirk, tu vai su canali e ti apre tutte le pagine, c'è la tua destra, c'ho tutti i nomi, c'è Dillo, c'è Calcio, c'è Chat Giocchi, Chat Facile, Chat Gratis, allora devi cercare Chat Simpatia, ok? Chat Simpatia, quindi due volte e c'è dentro Chat Simpatia, c'è dentro Chat Simpatia. Certo, Smigo. Smigo, questo è il microfono in chat. Ma c'è una guarda. Ce ne sono tutti che sono, diciamo, con due nick dentro. Capito? Questo è il mod, che ne ha riconosciuto due nick. E la ragione. Non posso andare con due nick in una chat. E poi la prova. E fatti vedere come si fa. Poi vai su canali, ti apri tutte le pagine e vai su anche lì sulla tua sinistra, tutte le stanze, io sono su chat simpatia, pure sono su chat siciliana doc, allora questa non la posso sapere, allora, il mio nome è, vabbè, già si nota comunque, già dai, non c'è da sbagliare, lo vedi. Allora, c'è mia moglie, c'è il computer, non fa altro, ce l'ho dentro l'ordinario, e qui ora arrivato. L'unica cosa che mi serve è sapere, tu vedi, sapere, c'era 41 anni, c'era Pattia, c'era Amore, c'era Regina, c'era un bel... E dove cacchio entro, dove lo trovo? Boh, poi ti chiamavo e non rispondevi, allora ho detto, boh, esci. Vediamo un po' cosa dicono questi qua. Io lo usaio, tutti non vengono da altro di sono occhi. E tutti con martello giallo. Pure io. Io ci avevo anche le frasi già scritte. Ti espello per 3 giorni, ti espello per 24 ore. Clicca lui, tacca la mandava. C'è lo script allora. Aspetta un attimo, vediamo come fare. Una prova. Devo... Passo. Espelli. Espelli personalizzato. Vai via. Lascia vedere, c'è la spella. È sudato fuori. Biuso, dai, già funziona. Comunque ci sono delle chat che se tu prendi le mani le lettere tra parentesi ti mandano l'emoticon. Invece quella lì non lo fa. Per dire, io mettevo la cappa tra due parentesi e ti dava il bacio. Non lo so. Il fiore mettevi la F tra due parentesi e ti dava il fiore, la rosa, rossa. Figlia. E qua comunque. Allora aspetta. E qua, vabbè, ti poi ti avevo lo script, capito già, e ti ascoltate per quel fare del corpo, per fare le rose, per fare un casino di cose, fate tante cose. Non so, ma quello è già predisposto, ma se tu vuoi costruire qualche cosa io poi le facevo i disegni con le rose, con i cuori, le facevo le faccine, fatte da me, a livello di fiori, di cuori, di queste cose qua. Poi mettevo tutti i baci come contorno, poi scrivevo questo per tutte le donne. Ne vedevi le donne chiamandomi da papà. Se fosse volte il bacio. Se vuoi entrare, no, come si fa avuti, anzi, vabbè, continuo a comprare queste sigarette, poi lo faccio a prendere le chiavi, da, perché se ho cacci l'antena domani mattina, così, cioè, dobbiamo piazzare, poi domani sera andiamo, la terminiamo, perché non c'è nessuno di mattina a casa. Aspettiamo solo, organizziamo tutto, buttiamo il campo, poi questo è il giorno e l'antenna e finiamo i collegamenti. Ma quale antenna? Quale antenna TV dobbiamo piazzare? Quella che va Luca? Quale antenna TV? Ah, ma quella di Luca, che cosa te ne fai? Per volare. Ah, non è per te, no? Pensavo che era perché ti girava l'affare del pieno che lo volevi cambiare. Negativo, già non è per me. Negativo. Ho già capito perché forse. Ti dico le iniziali solo. Qui capisci a me. Può essere. Lui è. Non ci può quasi dire, può essere. Può essere la via. La via. No! Ah, ma sono fulenti. No. Sì, puoi stare già. Adesso lo dico. No, però. Mi sono via questi bei occhi. Bene, chiudo. Guardi, mi prendevo la faccia già, c'è qua la faccia in fretta, scusa, ci trovo. Vai. Ma è molto sempre, mi avrei sì, c'è un po' giù morto, va a posto, ricotta. Ma è proprio acqua. Io lo so, ma quando c'hai... C'è dato se c'è più chiari, boh. Io adesso ho paura, mi pare mi la vena, mi vedo questa non le piglio più. Ciao. E aspettiamo, poi ci sentiamo, ma cosa, per fare una maggiore, che l'ha fatto? Non lo so, saranno riposate. Adesso lo subito, grazie. Mettere il baracchino in un porto, così la prossima volta ci stiamo camminando. Dobbiamo mettere l'antenna. Questa è una antenna, questa è una 8. Come l'hai sviluppato? Incipato. Eh? Paccato. Che pazzo. Incipato. Che faccio? Aspetta, cosa stavo dicendo? Non ho parola sbagliata, mi ha fatto crepare. Non mi viene. E ti che hai dormito a ciambella. Uno vai là, se non fai più niente. Ciao Luca, avanti. Ciao. A presto, magari arrivo con l'antenna. la mia madre. Prova. Guarda, non è il segnale, già. Passa di lungo. No, da te, ma da te, guarda un po', l'attitudine. Sì, esce i 9.29. Andà bene, andà bene. Se vuole guarda, tanto è stato male. Se ti arriverà ancora poco per il resto. Quasi 9.30. Te la posto bene con la linea. Se vorrei volare, collare, stazionare per la sera. Quanto ti dà per la sera? In questa volta è un bel so. Cara, aveva 1-1 se ce la fai. Alessandro. Attenzione Alessandro. Seia. Ma stai pescando. Adesso dove si sta? Devono saltare con 3 qua. No, no. Ho capito negativo e basta. Santiago 3, sì. Sì, Santiago 3. Ehi, ehi. Cosa stai girellando? Beh, oggi cos'hai? Domenica non lo dovevo diventare aperto. Poi la prova è granare si è aperta. Poi non Torres. Praticamente via il Torres anche lo sai dov'è. No. Praticamente presente dove c'è il rifornitore di Cusso. Fornitore. Come spiegato, dove c'è il consorzio agrario a produttore, lo sai. Prova a plantare, se prende paniti vuoi fare. Sta arrivando bassissimo. Lucas. Anto. Prendia. Andini. Purtroppo c'è la gente che non ha potuto rispondere. Ah, pensavo che voi ci addormentato. No, ragazzi. E si sentono le luci. Cagliari 5-1. Ha fatto 5-1, era ora. Sino adesso, poi non lo so se è finita la partita. Però mi ha telefonato a mia suocera che erano contenti che ha fatto 5-1. Ah, Cagliaritane. No, non Cagliaritane, ma ti farò per il Cagliari. Meglio così, era ora. Allora, adesso c'è l'ultima gara, c'è il gran premio di Interlagos in Brasile, vediamo un po' cosa succede. Comunque buonasera a tutti, chi c'è in lotta? C'era Alessandro La Torretta e Luca Flipper che sta mettendo a posto l'antenna a casa della madre che gli diamo di stazionare. E se lì capo si può andare da un bel conto dire. E arriva 9.30 a casa, figurati a te. Allora, con lo scala, logicamente ci arrivo anche io a questo scala. Perché c'è anche stazionario lui, c'è 1.5 stazionario dove regolare, per dove regolare il dischetto, boh. Ragazzi, lì già c'è un buon rosso, dove c'è un buon rosso. Va, perché le vista sta per le sue. Stazioni, una dalla suocera e una dalla madre. No, vabbè. Insomma, a me mi piacerebbe averne una a casa mia, guppa. Io ti arrivo, però c'è un bel, funziona un bel. Che cosa, l'antenna? Sì, è più corta della mia. Quella di Luca Flippa. Sì, è tutta particolare, non è nessuna cassa, è tutta... è particolare con l'antenna, l'ho fatto vedere com'è. È un bel strano come è fatta. Come è fatta? Dischi? Laggiù sembrerebbe un tubo grosso. Capisce manco più l'antenna. Me l'ha detto ma io non me lo ricordo. Ma te la prendi, Antonio? No, non va bene. città. A Tenerife non è città, basta, non è che è fuori, non vedono un cavolo. Andare fuori ci vuole un'antenna grande, da poco di là. Tecnologia di adesso dovrebbero fare anche una piccola che ha la stessa resa di una grande, sì. Però quanti fatti ti è? Non lo so, non me l'ha detto, però non l'ha detto che c'era un tempo. Stava salendo sul tetto, ci metteva la mattura a 5 direttamente, o la 1. Quando tutti l'antenna del Darrazza. Sì, con l'amplificatore e cose. Ah. Così fatto di antenna. Quindi il televisore di storia, cioè, si trovava per quello, la roba che non si può usare, l'amplificatore dell'antenna. Ma adesso sicuramente con il carrettere ci dovrebbe essere più problemi. Però un attimo, c'è questo cavolo di auricolare e il filo in tira, ogni tanto mi dice dalla reggia. Io mi stavo per pigliare nel ricevitore e ascoltare un po' il ricevitore, c'è il tabù. Alessandro, lo sì. No, non sta sentito, voglio stare con il servitore acceso. Ha detto, è bello un bolito. Io mi intendo la corretta. Ecco che è strano che non lo senti. Ha detto, metti l'antenna, se no non mi senti mai. Ma posso fare, se non arrivi da fare. Bene, mi senti già, produttore. Non è con il dottore, già c'è troppo commerciale. No, è cavolo, cioè l'ha dovuto sentire, ma come un po'. Era che è tutto negativo e non mi arriva per quello. A noi manco Romero di Coca, che sapete quando partire da 9 volte da mettere il microfono al tavolo? Vediamo un po'. Tra noi due no, non può correre battaglia. Ma non da morte? Dai, perché io sento anche a gialle. Ah già, ancora non era qui. Sai che c'è da fare? Bisogna così che baracchi da capo a vedere se lo contento. chiavi, cazzo. Se fai tu, dopo mi sta però lo squillo, lo sto chiamando un 20 centesimi con il telefonino, ma non mi risponde, stamattina, non risponde. Non mi sono pure, va. Ma non capo, non ho fatto niente, già solo fatto le condizioni. qua. E mi fa questo problema. Tanto quello devo fare auto call. Ma cosa è scritto, che malattia è lui quello? Sempre quello delle macchine. L'abbiamo visto magari là, quello piccolino. Su internet. Cerca, vedi dove c'è scritto cerca? Apri lì, realtà i file che stavi cercando tu, chi è che te li stava cercando? Pure dove c'è sempre su cerca, ti apre quella pagina, sulla sinistra c'è quella barra, lì scrivi il titolo o quello che stai cercando, fai invia, a destra ci ricordo fai invia, e ti apre tutto quanto quello che vuoi cercare, quello che ti serve, cerca tu. Poi ne digiti, ne schiacci sopra a uno che devo cercare e poi sotto c'è scritto scarica e seleziona. Web server. nella prima pagina di Evole, la serva, apri quella pagina lì. Pagina di Evole? Nella prima pagina, appena quando apri Evole, tira in alto a sinistra, servito serva. Prima pagina, Lu. Qua sono sui server adesso. Trasferimenti, certa, file, messaggi, IRC, statistiche, opzioni, strumenti aiuto. Aspetta, adesso chiedeci. Becco. Danne. Ma l'antenna è a posto, le messe. Questa è quella che si è fruttato. Ma la recezionale è a posto, le messe. Ah, anche se sei detto, perché tra mettere la scala e salire su e devo abbassare il palo e tutto, e si faceva buio, faccio un pomeriggio, con la mattina, non devo prendere niente. Bene, andare in due, uno con un portatile, uno con l'altro, tu muovi e l'altro controlla. Bene, mi portavo il bacchio sul tetto. Allora, i due portatilini. Perché sono dall'ultimo piano? Perché capito che io da fino a quando sono a camera. Ah, beh, uno controllo e l'altro regola. Infatti. Anche perché ci ho messo un numero di quanto so poco, guarda di te. Cosa, non ho capito? Che mi sembra che ci ho messo un cavo di cui da spendere poco anche. Dove, nell'antenna? Dovevi cambiare 40 centesimi, l'ho pagato da cosa di te. Che vuole avesse? Ma era di 58? Ah, ma era di 58, io ce l'ho 5 anni, grazie a Dio, stazionario è zero. La regola e poi la tiro ancora più su, tanto c'ho un altro paio di metri di palo da uscire dal cordicione ancora. Io a casa di mamma le 14, ce l'avevo 10 anni, c'è la gran blitz. No, non mi ha mai dato problemi. Anche se ne dicono tante, che si secca, che qua, che là, tutto si secca, se col tempo si secca tutto. Io c'avevo le reggiotto, non ricordo le reggiotto, mi alzavo, ma meno male perché avevo le reggiotto. A me non mi piace perché apri così, si muovono tutti gli strumenti, un casino, invece quello lì è malleabile, di quelli morbidi. Non lo so, mi ricordo infatti, era la stazione dove si è tutto bloccato, è un casino. Un po' grossi sono quei cavini, non fa dai. A me non piace, non puoi fare buchi troppo grandi nella finestra, così ho buttato sotto il legno, no? E poi non si ritorna tutto lo stesso colore, non si vede nemmeno. E però a fare i buchi più grandi, mia moglie mi tocca grossa. Ma poi ne avevi scelta quella antenna già, l'ho buttato quando l'avevo piazzata. Sì, l'avevo ricesa perché se tu ti ricordi Claudio aveva fatto di non mettere il vulcanizzante, che non c'era bisogno, invece mi è entrata tutta l'acqua, è arrivata sino al capo giù in casa, è entrata tutta l'acqua dentro. E l'ho dovuta riscendere, l'abbiamo girata a testa in giù e c'è un rubinetto di acqua, c'era dentro. Cambiato tutto il capo di nuovo e poi subito dopo un mese l'ho ripiazzata, avevo vulcanizzato tutta quanta, completamente anche PL, tutto quanto. Fatto un lavoro come si deve, ripiazzata, rimessi i tiranti, e adesso da quel momento non ho più toccato. Ma io so che la mantova non ne ha bisogno di vulcanizzante, per passare e basta. E tu lo dici. Prova, prova. Tale pavimento da Trento è arrivata sino dentro casa, figurati tu. Io tolto il piede e uscita l'acqua da sotto dentro il piede. Come non mi è mai entrata l'acqua da dove si stessa a te? Pure io quando l'avevo piazzata la mano, poi il buco che entrava in camera era sempre aperto. E l'acqua però non è mai entrata. Anche perché sono talmente precisi quei dischi che entrano già spostati, più poi gli studio la facetta. Forse entrava l'acqua da... Sai che entrava dalla spesa, no? No, lì, a parte che quando l'ho scesa adesso l'ho messo vulcanizzante in punta, è tutto vulcanizzato, non ho di trabbi di roba, ne ho messo silicone, da lì non entra più, no, l'ho perso. E lo sai cosa c'è? Che le nuove, tu avevi tipo vecchio, le nuove, le incasso, ce l'hanno con la parte che si allarga verso l'alto, quindi cosa succede? Che l'acqua scendendo penetra, invece le altre erano verso giù. Io sono andato 20 anni fa, 2 anni. forse per quello. Ma hai fatto bene allora a focalizzarlo, perché se le lascia scende, i buoni, non fanno lunga, niente. Se no la tocchi più qua tu. Infatti, si è fatto un bel po' di focalizzato e c'è per Luca manicomio. Abbiamo fatto, ne abbiamo rifatto il piede perché stringendolo deve essere come è stato stretto con pappagallo, ma spaccato. È entrata umidità lì dentro. Insomma, un casino, dobbiamo tutto rifare. Perché non si dice mai con pappagallo. Non si dice bene a mano, poi ci metti il suo cappuccetto lì, siliconato, tutto quanto. Il cappuccetto nero che copre il piede. Poi va dentro la fila, dentro anche il coso e gli fa da modo dell'acqua e scivoli sopra e va dall'esterno. Invece me l'ha fatto togliere quello lì, mi ha detto che praticamente entrava l'acqua dentro e si ristagnava, capito? Quindi me l'ha fatto togliere e me l'ha fatto vulcanizzare al posto di lasciare quello lì. Vuole quel cappuccetto. Poi quello lì è la base del piede, c'è una specie di grondina. Quella fare lì va a infilarsi dentro la grondina li fa da scotolatoio e l'acqua cade sopra l'esterno di quella fare nero e si è apposta e poi io so perché avevo fatto un altro se dovevo andare nero perché se poi l'acqua da sopra vada verso l'alto e infatti non è quello lui. Vabbè, se entrava da piede il filo qui è messo in discesa, è normale che entra, no? Però era tutto nel radiali l'acqua, come noi abbiamo girato l'antenna, l'acqua era dentro nel radiali. Yeah. Quando gridi così, Luca ha la voce bassissima, avete tutto il volume, si è sentito un casino, come te dirà, a piano. Avete avviso appunto quanti vari grossi, quanti sei bolso, mi sta di vecchio, scusa. Stavo chiamando, Gianni, beh? Ma chi passa? Ehi, ti prendi la gola, chiudi e muori. Non ci credo, no? Ciao, Pista. quella lì è una zona di rubescio nocivo, da poco di là. È tutto inquinato. Beh, la gola ti prende l'odore che c'è fa carizzare, questi vedi andare a piacere in chi. Non respiri, se non respiri muri. Non vedi tutta roba che fa male, sono fenolo, quello che tu stai dicendo che sono gas è fenolo. E prendere la gola con l'affare di buio o sono questi vitali di sì. E la gente che lavora lì dentro, immagina. Sa, alla fine della giornata cominciavano i polmoni. Senti già, io scrivo. Giù, senti. Facevo anch'io queste cose qui prima. C'è quella pecora che piangeva, faceva meeeeh. Con una forma attacca giù per su di tutto. Cosa? Beh, è normale come prima. In più ci sono i cartelli di vetro di pesca. Cosa? Lei attacca qui ai muraggioli del molo. E ce n'è, c'è una bella giovinità a ottobre. A secco si è rimasto. E dopo tanti anni, quanti anni c'è? Raga, non sta un attimo che non so. Allora, ecco qua. Vai. Meglio solo che mi ha accompagnati. Eccomi. Per provare verso i pitini a pescare, ci stanno pescando rate mastodontiche. Devi avere un bel lancio, almeno 150 metri devi lanciare. Barchetta, perché barchetta c'è? Quello lì, tu? Ma usiamo a far pescare per cazzo di... Il golfo! Hai un motore, come cammina in acqua? Beh, poi come fa a camminare in acqua? Vabbè, a vedere il vero, quelli. Allora io uso il sughero per quello da fare, però quando c'è il vento ed è sempre un casino perché devi aspettare che rientri, poi con le onde, cercare di riprendere, un casino, insomma. C'era uno che usava una barchetta motore, quella telecomandante. Ma sai cosa succede? Che se si scaricano le batterie andando qui a ritornare te lo devi fare a nuoto per andare a prendere. E immagini, lo porta al largo, si scarica le batterie e non torna più indietro. Che? Problemi d'ombre, a Treviso? La TV hai, ragazzi. Oh, che tipo strano. Cioè, non puoi modulare, non so perché non puoi modulare. Ah. Un cazzo. Un pochino, ok, te lo ricordo. Eccomi qua, che ne viene? Chi mi viene? Il sacrificio. Ma che è già? Che è successo, dimmi di? No, stare a casa per me è una tortura, una morte. Lo so, dopo, non so la te, pure sono in galera, non è più. Ma quelli ce l'hanno voluto loro, io non l'ho voluto io. Lo so, purtroppo sono fuori dalla vita di anni. Tu ricordi una cosa, che ai morti non succede niente, ai vivi purtroppo sì. Niente, ma chi si tirare tutti a me, porca vacca. Adesso mi sembrava che mi stava guardando, adesso mi sono girato e ho visto questo capogiro allucinato di nuovo. Ti capisco, già purtroppo casino. Non posso stare in piedi, mi cerco debole. Ma ti controllavo, beh, allora, c'è questo problema. Fatti fare ormai c'è capo. E quando qui come si busta lì, così almeno finito di soffrire il lavoro con tutto quanto. Non è così. E ti spingi ancora la razza, ma non è avanti, ti anni. Guarda bravo. Beh. Ma lo posso dire io, non ho niente. Che non ho nulla da... Io me la posso fregare, ma tu no. Vuoi tua madre, l'assistere? Mia madre va a bere un conto. Uno quando ha un figlio da assistere, c'è la madre avanti, un'altra cuba. La madre è una cosa, un figlio è un altro. Vabbè, sono tutte due importanti. È stato importante molto anche mia madre. Lo so, ma chi si deve fare in due già? Vuole male in due? Te la fate tua madre. Allora, vabbè, sono frasi che si dicono, poi quando stai morendo cerchi di... Anche mio padre diceva sempre, voglio morire, perché quando è morta mamma ci ha sofferto un bel, mi è venuta una specie di pressione, là. Non ti credo. E stava sempre così, voglio morire, La fatica del cacciuto, praticamente, per il bagno, mi manda sempre via, no, quando... che gli davo le spalle e mi manda via perché non si vuole far vedere nudo e poi mi ha chiamato, mi ha messo l'asciugamano davanti e mi ha detto aiutami a sedermi su un water e così mi vesto, no? Sporco perché ho chiuso, l'ha usato come si dice, a un certo punto si intende cosa è successo, sono andate della canta, avevo sbattuto le cose dal bidet. Troppo. Un casino già. Che è la cosa? Sì, vedi? Vabbè. Già, sono cose della vita, purtroppo. Ma io... Guarda, arrivare... Ora adesso, a 90 anni, ho 80 anni, soffrire è meglio che fare prima. È quello che mio padre... A parte la sofferenza della morte di mia madre, grazie a Dio sta bene, no? Non si può lamentare. Appunto perciò. Oh, lo sai che discorso mi fa? E dove vado, dice adesso? Ai giardini mi sono morti tutti gli amici. Quelli che avevano Sacro Cuore mi sono tutti morti. Quello che aveva stato Apollinare e col suo ricco, che erano tutti i suoi ex clienti, eccetera, eccetera, sono tutti morti. Già adesso tocca a me. Che è la cosa? Ma io ti credo già, ti credo, che è la cosa? No. Scarica. Che dove? Il cuore ha fatto. Pecorelle che fanno bene, ce l'avevo prima, avevo la prima quello lì. L'avevamo riformattato il computer e insomma l'ha riformattato e sta facendo un problema, praticamente si appare questa finestra e scrive di ripristinare Windows perché sennò fra 5 giorni, fra 4 giorni, anzi adesso, ogni giorno scade un giorno, se non lo... come si chiama? Non l'aggiorniamo, scade e si spegne tutto. Lo controlla Franco. No, me l'ha fatto un amico ultimamente. Non mi ha soddisfatto perché mia moglie gli ha detto di mettere un programma e lui ne ha voluto mettere un altro. Dice ce l'ho già installato sulla penna, proviamo a mettere questo. Ma dice voglio questo, ma è la stessa cosa. E infatti si è visto che aveva ragione mia moglie. Non è che ti va a dire a capo di giù, mi dico, non deve fare così. Ma siccome stiamo pagando, quando non paga il diritto di avere quello che vuole. Infatti. No, la prossima volta se non ti clicco male, paghiamo e quello che vogliamo noi ci metti. Guarda una cosa, il compito è tocca solo una persona, non mille persone. Un po' fa uno, un po' fa l'altro. Eppure ognuno dice la sua, dice chi dà patusci, chi dà la patusci. Capito? Poi se ho fatto persona, una persona è buona. E per prima. Capito? Sì, è vero, ci danno la colpa a Vicenza. Come c'è il problema? Ci danno la colpa a Vicenza. Ma ho sempre fatto bene, solo che questa volta non mi è piaciuta la storia. Quando mi ha detto mia moglie, gli ho detto, se tu stai pagando, devi quello che vuoi ti deve mettere, non è che devi mettere quello che vuoi lui per fare prima. Infatti. Adesso l'abbiamo richiamato, devo ritornare e devo vederci tutto di nuovo, intanto mi scappito su o fuori. Vabbè, giusto, comunque dico questo, comunque dovrei toccare solo una persona, non mi dai persona. Ci danno la colpa con la temigia, vedere quello che ha fatto quello. Franco, per dire, una volta mi detto, no, già io non ci metto mani, è stato attaccato da un altro, adesso se lo arrangia lui, quello che ha combinato se lo arrangia lui. No, io non ne metto di mani, è la verità, ma è stato così. Ragione, c'è ragione, gira, gira. Ho toccato un altro. Mi ha detto che, visto che è così detto che l'ha fatto lui, lui sa quello che ha fatto. Io non lo so quello che ha fatto lui per fare questo casino. Non me l'ha fatto. Non te ne avrei fatto. Ma sarebbe l'ora di cambiarlo adesso. Adesso mi sto stufando. Sempre aggiustando, sempre un medicino con questo cacchio di computer. Perché adesso va bene il computer? Devi stare sempre, chiama tecnico per questo, chiama tecnico per l'altro, una cosa non va bene, l'altra non va bene. Fai la partizione e questo e quell'altro. Ci spendi un medicino. Io ti credo. Computer se prende il virus casino lo stesso. Se non ci fossero state queste cose dei virus, sai quanti soldi sarebbero risparmiati? Purtroppo esistono. Non spendere un bel soldi perché ti rovinano la scheda madre, ti rovinano questo, ti rovinano l'altro, di stare a cambiare, a fare. Non è che c'è una ventolina di computer, ma per caso Luca. Una ventolina di computer, ma piccola. Ehi, a me serve per 747 a metterla sopra. Piccola, molto piccola già, è molto, molto piccola. Piccola no. Se ce l'hai piccolina si va, e va da bene, dai. È una grande, ma è una grande, non è oggi, vedete. Ma è rotta. È qua, è grande già, è quella che va attaccata, ci ho fatto con rotto. Comunque funziona, ce l'ha voi. Qua se te la prendi, sarà piccolo e mio sulla fretta. Molto pronto, di diametro, 8 centimetri. Dovrebbe andare bene, con il suo cuore dovrebbe andare bene. Devo passare le tappe, non c'è problema. Vuoi attaccare uno al cassettone per la regia di Tritovato. Ho capito, ci metto il ventilatore. C'è problema, basta dentro. Ehi, ehi, adesso vediamo, eh. Ebbè, Antonio. Ebbè, Gianni. È all'ombra, drumito, eh. No, stavo con un lavoro. No, fa male un po', eh. Comunque. Chi ha vinto? Il coso, la gara l'ha vinta Massa, ma il campionato del mondo l'ha vinto quel minchione. E chi è? Hamilton. Emule? Hamilton, sì, ma non si dice. È stata una lotta di quelle brutte anche. Tutto perché si è fermata una macchina, se no l'avrebbe vinta lui, il campionato del mondo, l'avrebbe vinta Massa. Vabbè, qualche motivo ci vuole, Antu. E quello diceva, se non fossi uscito da casa con la macchina mi sarebbe successo un incidente. E purtroppo sei uscito e ti sei stesso. Certo, ragazzi. Pazienza. Ci riproveranno. Soffiata. Yeah. Ancora drumito, Antu. Non lo so, dormite freddo. Mi sentirà la voce, da come fare, riproviate. No, no, no, assolutamente. Cava, cava. Luca. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Salvatore, non si è sentita. Alla Ricco, ah no, per niente. Quindi dovrò venire, deve venire a casa sicuramente. Cosa? Venire, boh, basta. Ah, forse ti ho capito al volo. Raga. Computer, accendiamo quando viene, così ci guardiamo un po' di roba. Andava. È rimasto incantato dagli apparecchi. Già, va, adesso sono ripartiti gli occhi. No, se io deciditi a farla questa stazione, era a casa, io almeno la notte parli con lui. Mi devo decidere Gianni, aspetta un attimino ancora. Già la fa. Mare di navi, raga, problemi va, bida rubalo, bida tutto. Ho fatto il gioco, come ho fatto io, mi ho fatto un giro di conti, mi segnavo quanto costa questo, ho fatto tutto il totale, mi sono buscato i soldi, sono andato e ho comprato tutto. Quando sono arrivato lì sul tetto non mi mancava manco niente, ho fatto una puntina non mi mancava, anzi ne ho avuto in più. Bisogna calcolare tutto, bisogna calcolare. E se fai l'esagerato mi dico pure, almeno c'è la roba. Ma io ne ho preso qualcuno in più di cosa, perché ti si sfascia una cosa abitando facendo, poi rimani in mezzo, ti tocca riabbassare, fare, invece così ti si rompe una, passami l'altra, vai, e la bocca. Così che si bisogna fare. Devi anche prevenire il fatto che ti può succedere qualche cosa con il pizzi, con qualche pezzo difettoso che non ha vita, sai, ci sono tante volte, sembrano cantate e te lo succede. Qui piede non ci sono mai capitati che quando vai a avvitare un riduttore è avvitabile. Tu avviti e non avviti, è come se fosse spam. No. Io li ho comprati da fusare, invece mi è capitato un po' di volte, due o tre volte già, adesso non li miglio più anch'io. Purtroppo, cioè, succede che, ma a me non mi è mai capitato, mi sono sempre andati bene, per fortuna. E adesso sì, sono fatto in silenzio. E la gioco, quella con le macchinette l'ho preso, la macchinetta mano. Pure mi è successo, sono arrivato a casa, ma sai che cosa mi è successo? Ho preso il riduttore e tutto quanto, di solito io dico, se il riduttore c'è a casa chi li compare, eppure io l'ho preso. Arrivato a casa, vado a vittarlo, non ha vinto, tutto quanto la biuda, girava sempre e non stringeva mai, capito? Male che io sempre c'ho qualche cosa di riserva, sono andato e ho preso un altro ridotto e la vittava bene, meno male. Già, basta di dire, te. Non sono a PL, sono PL un po' così sono, sarebbe buono. Ordinare da pure. Un piede un po' così, però negli altri posti non mi è mai successo una cosa, la vita va bene, faceva solo lavoro. C'ho pieve così, che ce li ho anni e anni, non si sono mai rotti, per dire. L'altro pieve, avvitando mi si è spaccato. Mi è rimasto il pezzo interno dentro. Così, dove avvita, quello lì si è spaccato. Cazzo. Evidentemente non ha dato una partita che non esibia. Può darsi. Come sono fatti da macchinari queste cose qua? Magari capita che il macchinario lavora male o per qualche cosa, qualche cuscinetto, qualche cosa che sposta. E può succedere, capito? Non è che sia. Una volta che tu c'è sempre la cosa di riserva, tu non ti rimetti a tutti i dini. Quando dicevi di domenica che tu sarai, ti servi, magari ti sei un'altra capitura, virai. Io ce l'ho di riserva. Anche io può capitare che magari qualcosa ti manchi, ma solitamente ho sempre almeno l'essenziale, là. Beh, certo, può capitare che ci rompi, succeda qualcosa, che va un po', non so, che male a tutti, e viraggio, detto. Io poi direi c'è una staffa di quelle che si attaccano al muro, che si avvittano per tenere il palo. Quella lì mi è rimasta, ce l'avevo in più, la volevo mettere. Non certo se metterla a nuovo qui per non fare un altro buco, ho detto ma vai, ci vieni io a tre, cosa mi ne posso di massa? Volevo mettere quattro, poi sei proprio pignolo. No, già tiene, a Puglia. Ho messo tre, due giù e uno nella Mantovana, a Puglia di tempo. A Puglia, da Ugrino. Ci vogliono così buone. Faccio un acciaio, ragazzi. Beh, non è acciaio proprio, non penso che sia acciaio. So che sia roba di ferro e buco. Che fregato. Io vado a dire che ne prendono a capo. Quello... è la mia... Purtroppo. Sono così. Ma durò durante il tempo, ma se li... se li... ma no, non l'ha mai visto, ci hanno preso oggi. E così... cos'è stato? No, ruggine no, sono diventati un po' più opacchi, ma tutto lì. Ruggine non le prendono perché sono fatte in corso, la mia lasingata. Dopo tanti anni, forse, con la ruggine. Tanto, dopo tanti anni, vecchiamo anche noi. Questo è logico. Sempre usando un po' di schermi, hai lasciato la zingata, la vernice. Ah, beh, infatti. Non c'è problema, non mette problema. Mi passo quell'antirugine direttamente quello color argento. Quello lì che fa l'antirugine è la vernice, è la truio. La vernicia. Lo sai che cosa ho verniciato con lo smalto delle unghie? E cosa? Quelloni che avvitano, che fanno da morsetto per tenere il palo, i dadi, ho verniciato tutto quanto a coso, a smalto di unghie, quello è un trucco che mi ha insegnato signor Luciano Mattera, quello della giostra di Matterland. Gli ho chiesto perché lo stava facendo e mi ha detto perché così evita che i dadi si smollino. Ahia. Aveva insegnato lui. Da soli diceva si smollano, con la chiave poi si smollano, però soli non ce la fanno. Con lo smalto in tacca e lì salla, capito? No, ecco perfetto. Non sapevo questa cosa. L'ho fatto io. Non me ne fatti nulla di chi si pensano i lastri. Si smollano con lo smalto, te la si prendi e è tutti lì. E poi se te l'ha detto una persona esperta, chi si... Sì, si sono bulloni che non si devono assolutamente sbloccare. Aspetta, Antu, facevano smollavano da un posto e mettevano nell'altro, dice, ti pare che io devo rischiare che smollino i bulloni, che si molli qualche cosa. E preferisco consumare una cosa di smalto di unghie, piuttosto che una cassetta di smalto di unghie, piuttosto che vedere gente volando. Gaffa, gaffa. Meglio così, proprio che tenga. No, questa storia non lo sapevo, il tuo smalto rosso, no? Eia. Lo metti davanti al dado, no? In modo tra il dado e il bullone, dove avvita. E blocca, fa la bloccaccia. Esatto. Che blocca si legge, però una volta che lo metti non è chiave di... No, deve essere una cosa, lui va e questo è bello perché solo non molla, con la forza della chiave devi fare un po' di forza e molla con la chiave, però da solo non ce la fa. Lui lo spingeva a morte e poi gli metteva questa cosa, capito? Come ti si chiama? Basta. Non andava di matese, cioè, basta, è stato uscito, va. Se disegna. Sì, raga, ti voglio dire una cosa, perché stavo andando in televisore, capito? Ah, credo il filo dell'antenna, tu la si disegna. Ho perso il filo. Ho capito, ma siccome ti fa bisogno di cose, bullone, di che cose qua di antenne. comunque così, bastano certi accorgimenti, ma la prossima volta la fretta non mi frega, balla, la prossima volta faccio tutto. Oh, questa volta qui è stata fatta regolarmente, però non avevo dovuto fare tre buste l'antenna, ma fa tutto come ti vuoi. Io l'avevo già piazzata le antenne, così faccio, rimetto il vulcanizzante anche a un bel giro, e poi dopo sopra il vulcanizzante un nastro di quello buono, però, di quello che non si stacca. Che la voce che la attacchi lo buono in tira blu, però è lì per fare i giri, un bel giro. Perché il nastro copre il vulcanizzante, in modo che il vulcanizzante non si deteriori. E nella stessa tempo il vulcanizzante copre la bollonatura dell'antenna, eccetera, eccetera. È così che si fa. Poi in punta, dove c'è il ragnetto, io li mettevo sempre così come trasparente per non vedere, sennò per non entrare acqua, perché a volte si può seccare quel ragnetto che è di plastica, no? Si fa il buco e entra l'acqua da lì. Allora li mettevo, lo riempivo di silicone, tanto non si vede da giù, lo riempivo, li mettevo proprio una bella siringata. Ma non si può mettere, cioè il tacco non si può mettere. Ma non capito perché quello lì si rovini, cavolo. Cioè, già hai fatto questa battaglia e va destruito. Tanto. Quello lì ha fatto la punta, quello che sembra un ragnetto, è un tappo che c'è in plastica, in punta, di modo che copre la punta. Cosa succede? Che col sole, con le intemperie, cosa si spacca e penetra l'acqua. Allora, cosa si fa? Solitamente molta gente fa una cosa. Quindi Antonio Riserva mi aveva detto che lui lo toglieva direttamente, ci metteva un tappo, lo riempiva di silicone, prova di entrarcelo, lo metteva dentro e poi lo riempiva di nuovo di silicone. E però una strada con il vulcanizzante. Quello è un metodo per non deteriorarsi e non entrare l'acqua, capito? E invece lasciandolo così si dilura nel tempo e cose, poi alla fine che si deteriora, si spacca e entra tutta l'acqua dentro. C'è gente che senza radiare, tutta rugginosa e non li sa stazionare né niente. Allora, guarda di là tutto. C'è una pulita e vabbè, uno può rinnovarla, ma però uno gli dà una pulitina per la faccenda. Per dire Mario, ha preso la cambetta da bollizzare e dice va, mi dura altri 10 anni, me la mongo l'uva, non le voglio manco già bella netta, la penna me la metto a nuova, se la messa a nuova ce la sono per 10 anni, non ce l'ho pensare più. Quindi ha voglia di protezione, sì, io 7 anni. Noi abbiamo ricominciato così, Luca, vero? Cosa? L'antenna, quanto tempo ce l'avrò io? Non lo so, sicuramente... Ma di qua quanto vi dai più? 2 anni, no? E io ci avrò 5 anni, 6 anni. Io sono stato il primo mia stessa di gran piantata di nuovo. Certo. Ma stavo dicendo, l'altra volta mi ha detto che per chiamare eri a zero, vai, questo è niente. Come ho stasera, se vuoi andare te lo posso dire, ci vuole appena. Voglio così. Sì, ma io questa appena non lo vedevo quanto da giù. Mi sembrava che era sempre fermo, capito? Infatti sono andato a controllare, gli ho cambiato lo strumento, ho preso quello nuovo, l'ho comprato, ti ricordi, me ne ho comprato uno nuovo di riserva, sempre per avere la riserva, no, per non andare mai alla sprovvista. E tanto vedi, in questa occasione se lo sprovvio, che ti rendi conto se lo strumento o se è sballata qualche cosa. L'antenna va benissimo, c'è da lamentarsi, va molto bene, sono soddisfatto di questa antenna, non la cambierei, l'altra che mi metto sempre a Mantova 5, non ne metto altra. Questa, metti cavalli nuova, ok, non va bene ma se, Io sono salito su quando ha fatto col vento che ne ha buttato tutti gli altri, direi che non sono salito a controllare tutti gli attacchi. Perfetto, non se ne è mosso uno, i tiranti sono in tira, ho controllato tutta la bulloneria, ristretti i bulloni, fatto tutto quanto, ma non ce ne vanno a restringere, erano tutti perfetti. Ragazza, allora, ma quella là, data ce l'ha per la vita? Me la voleva dare completa, capito? Detto che c'era lì di ripassare. E vuol dire che ne ha altri, cosa ci sono qui? Vuol dire che ne ha altri, poi qualcuno se lo rifà se ne manca, basta andare a comprarlo dal bico, ci sono a metraggio, te li tagli a misura. Quindi non c'è nessun problema per la mandorla, te li fai a misura e vanno bene lo stesso. Lui può fare anche cosa? Ma come si chiama? Non ricordo. Non mi viene. Massimiliano lo può fare, visto che la radiale che è riuscito, basta che va, lo compra e lo rimpiazza. Sì, è lì un caso di rimpiazza, perché sono abitature, è tutto. Non tutto, le boccole le vengono. Vuole incastrata bene la boccola. Quello è che prima avessi te, è difficile di quelle lunghe che incastrano sino in fondo al radiale, capito? Di modo che il radiale tenga bene. Poi mette a fare due bulloncini passanti dove c'è la boccola in modo che non ti scappi, capito? Si può fare bene, io credo che non si potrà cambiare. Ma dovrebbero, io prima li prendevo, adesso non lo so, ma penso di sì, li vendono anche con le boccole lì per avvitare i radiali, si incassano, poi una volta incassati vanno a fondo, c'erano di quelli, ci sono quelli a passo lungo, quelli a passo corto, quelli a passo lungo, lui mi fa passare un bollone passante, di modo che dopo non si svitti più, che non esca più, capito? Sì, sicuro che c'è il primo a casa, ma non è Claudio. No, Claudio forse ce l'aveva già, Luca. Io sto parlando di quelli, diciamo, che sono rientrati, stato prima il primo io, poi la piazzata Claudio, poi la piazzata tu, poi la piazzata Roberto Quadrato, Mattarino mi pare ce l'aveva già, insomma stavamo mettendo in tanti prima, poi hanno seguito tutti gli altri, gli Italo, tutti quelli lì. Bianco per me, dai, che sono da mangiare, ci sentiamo dopo. No, Daccio. Io, quando ho piazzata, non lo ricordo neanche. Forse, sicuramente, il giorno... Allora, io la prima, ma tu dico subito. Quello abbiamo recuperato in quella mantova picchia. casa. Ma tu quel palo lì, sostituire, anche tu pratico. Non l'unico, ma fammi uno unico. Uno unico. Farlo basculante come quello di Giulio, che quando vuole lo abbassa tranquillamente da sola l'antenna senza chiedere mano a nessuno, oppure la tira su da solo. Ho fatto una cosa allucinante. Si piega l'antenna e si abbassa. Allora, Claudio, questo qua l'ho pagato 58-60 euro da 2 pollici. È entrata la 2, quella della mantova. Non lo so. Un pollice qualche cosa. E ma i pali dove li compri così? Tutti. Sì, ci andiamo a cedere, mi dà. Nuovi, nuovi. Sì, sì. A me, io siamo opere, ho fatto 3 scopi. Quindi ho anche una riserva, non lo porto di su. Ma che cavolo faccio, sono motocardo. Un pollice e un pollice e mezzo, no? Pollice e mezzo? Sì. Ma comunque sono buoni anche quelli delle segnaletiche stradali. E sono quelli, ma quello che ce l'ho uguale, più o meno, quello lì. Qua che te ne accorgi se c'è una striscia, un'incavatura laterale. Non è così, mio, ma è di quella... grossetta lì. Lì sono buoni. Se ci sta l'antenna dritta, è un termo. Non lo so. Lì sono pari... durano una vita. Non si fa griggiare mai. Piegano solo le macchine quando si sbattono e buttano. Non lo so, già. Gava. Ma prossima volta che la piazzo, avevo paura io, perché qui tu lì sono troppo pesante, ho paura che le facciassi tutto. Invece ho visto che quei tassini che ho preso vengono bene. Pensate le forze.